Io non so come Paolo avesse personalizzato quella stanza, so che in quella stanza ci ha passato 3 giorni prima di uscire. Pronto Paola? Ciao. Ciao, come stai? Eccoci, benissimo, bene, bene. Senti, innanzitutto è un piacere sentire che una persona che chiedi come stai dice benissimo. La seconda domanda è, Paola, sì. Perché hai scritto da uomo? Ma guarda, in realtà non c'è un motivo. Stavo riflettendo un po' appunto su quelle prime ore passate in India e mi è venuto da scrivere appunto al maschile, così. Come si chiamava l'albergo di Nuova Delhi? Si chiamava Shanti Home. Sì. Non è vero. Giuro. Ma dai, ma se lo metti in un film pensano che sia scritto male. Davvero, no, si chiamava Shanti Home, esatto. E quante stelle aveva? Valgono le stelle in India? Sì, no, diciamo no, non valgono le stelle in India, perché anche 5 stelle in realtà non sono dei veri 5 stelle, però era un albergo molto bello, era l'unico che avevamo prenotato proprio per la prima notte passata in India. Con chi eri andata là, Paola? Sono andata con una mia amica. Quindi eravate due donne? Due. Sì, esatto. Un mese in India, avete avuto problemi, è stata tranquilla? No, problemi no, abbiamo avuto un po' un piccolo shock iniziale, però proprio dal punto di vista emotivo più che altro. Perché... E avete alloggiato solo in Shanti Hotel, immagino sia una catena, voglio immaginarla come una catena che pervade tutta l'India. Magari fosse stata una catena, no, era proprio un solo albergo a Delhi, molto bello, e per le prime notti appunto avevamo scelto un albergo un po' carino. Sì. E poi in realtà avevamo appunto prenotato solo quello perché è stato proprio un viaggio costruito zaino e spalla giorno dopo giorno. Sì, senti, esatto, Paola, però tu adesso mi devi dire una cosa. Sì, perché dimmi. Quando tutti mi raccontano dell'India, mi raccontano degli odori e dei sapori e dei colori e del pugno nello stomaco, tu adesso mi dire qualcosa che non c'entra dell'India, mi devi dire una roba che potrebbe essere magari anche a Cinisello Balsamo, però basta che non c'entri con i sapori, gli odori e i colori dell'India. Guarda, una cosa strana, anzi due cose strane. La prima è che gli indiani facevano le foto a noi. Oh, questa è una cosa che mi piace, ad esempio. Perché vi facevano le foto? Ma perché soprattutto in certe zone dell'India dove non erano abituati insomma a vedere gli occidentali, per loro era un qualcosa di allucinante vedere due ragazze ad esempio che prendevano il sole in bikini, per loro erano un qualcosa di stranissimo. Così, certo. E quindi insomma era lì che ti faceva le foto, o se no anche insomma anche in altri paesi. Una volta ci siamo fermati a prendere un tè in un bar e il barista è riuscito, è andato a chiamare tutti i suoi amici e si è riempito il bar perché voleva far vedere che c'erano due persone occidentali. Ah, ma grandissimo, oh ragazzi venite, ci sono due donne nel mio bar. Senti, l'altra, erano queste le due storie, brava, era esattamente quello di cui avevo bisogno finalmente e non solo il curry, il pollo al curry che comunque c'è ed è strepitoso. Ok, invece Paola, parliamo di te, giornalista e sommelier. Esatto. Un lavoro normale, no? Ma è molto bello, in realtà sì, se si riescono a unire le due cose viene fuori un lavoro. Cioè nel senso che arrivi in redazione ubriaca? No dai, non diciamo così. Questa no, poi faceva veramente cagare. Cosa, scusa? No niente, ho detto che la mia battuta era veramente orribile, peraltro ti chiedo scusa. Anche perché in realtà insomma non bevono poi così tanto, bevono bene però, insomma sì. Certo, insomma è assaggia, giusto, non gusta. Ho avuto un'esperienza simile qualche settimana fa a Vinitaly. Paola, senti, invece però cercando su di te, come dicevo, la redazione non si fa sfuggire nulla, qui dice responsabile ufficio stampa comune di Monza. No, responsabile, sono addetta stampa, sì. Addetta stampa. Siamo in due. Cosa abbiamo comunicato oggi per il comune di Monza? Oggi no, ho mandato un comunicato stampa perché domani abbiamo una conferenza sulla segnaletica culturale. Oh, sì. Che cos'è, esatto, la segnaletica culturale? Ah, i cartelli quelli gialli, no, marroni? Sì, credo siano marroni, in realtà so che li stanno montando in questi giorni, non li ho ancora visti, però sì, insomma, definiscono i luoghi culturali, turistici di Monza, tra l'altro Monza è molto bella, quindi... Paola, già che ci siamo, marchetta per Monza. Grazie Paola. Paola, ti ringrazio molto per il racconto e la chiacchierata. Ok, dai. Ciao, buona buon giornata. Lavoro. Grazie, ciao. Ciao.